Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Vabbè, cari ascoltatori, questo è grande Frank Sinatra, lo avete riconosciuto, andiamo verso Natale, ma malgrado tutto, noi siamo sempre con lo stesso spirito caustico qui, coi compari dei Conti della Belva, ringraziarvi per l'ascolto diretto in podcast, Oscar Giannino come sempre, Carlo Alberto Carnevale Maffè, è collegato da un ruolo, un grande posto di vacanza, credo Aspen, Colorado, no, non è vero, grazie, Mario Seminerio con noi. Buongiorno a tutti. E in Italia, non vi preoccupate, è in Italia, sì. In Italia. Allora, sono patriota io. Sei un patriota, appunto. Allora, di che cosa parliamo oggi in questa puntata, cari ascoltatori? Per indurvi, se volete, se non avete troppi pacchi per le mani e se non vi dovete affrettare come formichine perché siete in ritardo con i regali, però se invece ci siete, volete magari telefonarci all'800240024 per gli sms 349-238-6666 e anche per WhatsApp. Noi oggi facciamo prima un bel quadro finale fino alle 10.30 con Mario nella sua solita rubrica di tutto quello che questa settimana ci ha regalato e ce ne ha regalate di perle dalla confezione finale della legge di bilancio dove c'è di tutto un po' e molto di cui discutere a una serie siderale di audizioni alla commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche che ha ormai finito i suoi lavori e quindi si avvia alla relazione conclusiva promessa per la fine di gennaio, ma insomma ha riservato bei fuochi d'artificio e potete quindi su entrambe le cose telefonarci e dirci la vostra impressione, se siete soddisfatti per esempio del fatto che la commissione abbia preso tutto un indirizzo politico sulla storia MEB Etruria, MEB cioè Mariana Boschi, e poi su tutto il resto si è sembrato un po' passare in cavalleria, ma oltre a tutto questo noi faremo un punto in coda proprio delle considerazioni da svolgere in merito alla commissione parlamentare sulle banche, su a che punto siamo in realtà noi col credito alle imprese, e quindi sarà con noi Fabio Bolognini, vedremo un po' di numerini aggiornati su questo per capire, visto che sembra che sia tutto alle spalle, insomma i numeri dicono che mica tanto alle spalle la crisi del credito alle imprese, a cominciare magari anche dalle parti più avanzate del paese come la Lombardia. Dopodiché un altro aggiornamento di schifezze fiscali con il nostro amico Alessio Giolas, come tutti i sabati, e poi ci porremo una domanda, visto che si avvicina il Natale. Ma è vero, caro Carlo Alberto, caro Mario, ma è vero che l'avidità è nemica dello spirito di progresso? È vero che il Natale deve indurre tutte le persone buone a essere solidali e a identificare nel greed, nell'avidità, appunto, cioè in una delle forze fondamentali dell'economia di mercato, il nemico insidioso dello spirito solidale, compartecipe dell'umanità? Diciamolo che a Natale i liberali si mettono il lutto al braccio, perché questa storia, questo buonismo, questo volemo se bene, è il contrario dello spirito della competizione. Cioè noi Dickens l'abbiamo sempre odiato, diciamoci la verità, Oscar, non ci sta proprio sui maroni. Allora, è proprio da Christmas Carol di Charles Dickens del 1845 partiremo con piacere ponendosi la domanda. Ma innanzitutto, l'avete capito bene Dickens? O vi stanno spacciando un Dickens un po' diverso da quello che vi hanno detto? Cioè Dickens stava dicendo davvero che a Natale uno degli spiriti fondamentali dell'economia di mercato deve essere buttato via perché altrimenti l'umanità non è buona, oppure è una intelligente, abilissima manipolazione perché alla sua epoca non lo intesero affatto così i vittoriani e per i decenni a seguire. Allora, con Lia Celi incroceremo le lame. Innanzitutto io sosterrò che se esiste una verità, essa è proprio del genere femminile, non maschile. Uno. E vediamo cosa mi risponde. Il capitalismo è femmina, caro esatto, Oscar. Esatto. E secondo, comunque, incroceremo le lame perché per me Dickens ha detto tutta un'altra cosa. E la manipolazione successiva è qui, vedremo. Comunque, diteci anche la vostra. Natale è una festa che nega il capitalismo? Oppure... potreste dirci, è il contrario, il capitalismo ha risposto trasformandola in mero consumismo, ma sempre il vero Natale deve essere nemico del capitalismo, perché il capitalismo è appropriazione indebita, sopraffazione, e quindi il Natale invece no, ci ricorda che dobbiamo essere tutti liberi e uguali, come direbbe la Boldrini del Grasso. D'altra parte, il Natale ricordo che fu un'iniziativa statalista dei romani che impose questa storia del censimento e siccome non c'era Airbnb, questi due poveri ragazzi alla fine hanno dovuto trovare ospitalità per strada, ecco. Quindi secondo me ci fosse stato il capitalismo, sarebbe stata tutta un'altra storia. Se c'era l'offerta digitale non finiva nella greppia tra il buon l'asinello. Se non altro TripAdvisor qualcosa di meglio di una stalla avrebbe offerto, dico bene. Quindi io mi domando che gli anticapitalisti si interrogano sul vero significato di questo Natale inefficiente. Francesco ti scomunica, secondo me ti scomunica se ti ascolta. Mario, allora, al di là di tutta questa presentazione della puntata, però che cosa aggiungiamo prima che inizi tra brevissimo oramai il tuo punto di vista settimanale? Ah, io ho qualcosa di esotico praticamente relativo alla Cina. La Cina fa prestiti in giro per il mondo ai paesi in via di sviluppo, non solo sudamericani, africani, asiatici. Poi chiaramente quando costoro vanno nei guai perché non riescono a pagare il debito su infrastrutture che hanno un rendimento in avvio molto basso e quindi non generano le risorse finanziarie, la Cina diventa proprietaria. È successo di recente con un importante porto dello Sri Lanka, che è fondamentale snodo lungo, diciamo, la Belt and Road Initiative, e si sono presi i cinesi un bel affitto a 99 anni di questo porto. Quindi quello che io voglio dire, molto così esotico e poco natalizio, è che alla fine il debito risulta sempre essere una schiavitù, cari sovranisti, perché quando uno si mette la corda attorno al collo, che quel debito provenga dall'Unione Europea, dalla Germania, la vittima sia la Grecia o la vittima sia chiunque altro, alla fine i debiti vanno ripagati in un modo o nell'altro. La Cina, passata dall'aver subito la politica delle cannoniere alla conquista a mezzo del debito. Però io leggo molti compagnucci confusi che pensano alla Cina come una sorta di contrappeso al nostro liberismo cattivo. Forse è il momento di aggiornare i luoghi comuni e anche i luoghi comunisti, direi. Direi di sì. E invece io posso citare il fatto che per un'altra volta il Bitcoin ha dato una lezione agli stupidi, perché è giustamente crollato del 30%, come è normale che sia in questi casi. Quindi la discussione che abbiamo fatto l'altra volta torna a essere valida. Cioè, se volete pensare di investire in Bitcoin, tanto vale comprare biglietti dell'otto volante, perché questo è quello che succede normalmente. Invece di speculare sul prezzo, perché non provate a capire che cosa c'è dietro, a studiare un pochino, che è un fenomeno che merita la comprensione prima ancora, anzi, invece dell'investimento, che ripeto, non è un mestiere per retailer, semmai è una logica di comprensione profonda dei nuovi meccanismi della finanza. D'accordo. Il commento che ho scritto oggi sul Mattino è esattamente così. Dice, se non capite, se non aderite, dopo aver capito, prima capito, ma se non aderite allo spirito di che cos'è il Bitcoin, che come si vede non è una unità di riserva di valore, visto che è tutt'altro, per il momento non è una valuta legale ed è ovvio, non c'è dietro uno Stato, non è ancora in grado di poter essere una unità di scambio, cioè perché è un'altra delle funzioni di moneta, nel senso che per il momento, tra il momento in cui due parti perfezionano un accordo nel delta temporale tra cui lo perfezionano e si realizza, non è affatto detto che il valore in dollari è uguale, quindi tutte queste caratteristiche non ce l'ha. Però se lo capite e condividete e aderite all'idea di questo grande libro mastro elettronico di validazione delle transazioni che procede blockchain per vagoni successivi di validazione, per ogni validazione il cui premio è la distribuzione di una quantità nuova di Bitcoin, la cui quantità è fissa per definizione, ma se aderite a questo, cioè vi interessa partecipare a quel libro mastro elettronico, ha un senso. se lo fate per pura speculazione, auguri, però non ha il senso per cui nasce il Bitcoin. Diverso sarebbe per alcune delle altre, la ventina di maggiori criptovalute che esistono, che non a caso ieri andavano su mentre il Bitcoin scendeva. Però siccome molti ce lo hanno chiesto, ecco, questa è la mia opinione. Magari poi sentiamo a Mario che pensi di quello che è accaduto ieri. Una classica ipervolatilità di uno strumento dominato dall'isteria, peraltro diciamo anche che ha recuperato quasi tutto successivamente, no? Per cui alla fine chi ha tenuto la posizione cercando di non guardarla l'ha scampata, sì, sì. Però sono d'accordo con la vostra analisi, è uno strumento abbastanza assurdo. Cerchiamo magari appunto di isolare l'aspetto della nuova tecnologia, diciamo, con sì. Il distributed ledger, però rendiamoci conto anche, come hai appena detto tu, l'aumento dei costi di transazione, cioè quando voi volete mandare e ricevere Bitcoin nel mezzo di un casino di questo tipo, dovete pagare delle commissioni. Ieri, nel picco, queste commissioni valevano l'equivalente di $55 sì, sì, di trasferimento. Quindi se voi vi lamentate di bancomat, dei vari POS, delle varie carte non è di credito, esattamente l'alternativa, ecco. E credete che il Bitcoin sia il radioso avvenire, diciamo che c'è ancora qualcosina da perfezionare da infrastruttura. Direi di sì. Intanto torniamo tra poco. Della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Allora, grandissimo Mario, da cosa vogliamo cominciare? Cominciamo dalla legge di bilancio e poi andiamo sulle banche? Ma guarda, sulla legge di bilancio, vabbè, la cosa che mi ha fatto sorridere è che alla fine si è persa per strada la copertura e l'hanno dovuta rinviare per aggiustamenti successivi, per cui diciamo il fatto che quest'anno non ci fosse il decreto mille proroghe, oltre al fatto che siamo in chiusura di legislatura, ha determinato l'assalto alla diligenza all'ennesima potenza, sì. Per cui alla fine diciamo nulla di nuovo sotto il sole. 1247 commi. Sì, ma guarda, è abbastanza desolante, però vabbè, pare che sia la natura umana. Quindi sulle banche, che cosa vogliamo dire? No, aspetta, delle banche? Io ti dirò, però cosa desolante. Aspetta un secondo. Ci tocca ricordare che in questa legge di bilancio comunque ci sono alcune cose, secondo me, che qualche commentino valgono la pena di avercelo. Non voglio dire, ma ve lo ricordo, l'ennesima manomissione di tutto quel poco di concorrenza che c'è nel nostro paese, a cominciare ovviamente la protezione delle concessioni agli ambulanti, l'intervento a Piedi Uniti sulle istruttorie che c'ha l'autorità, l'antitrust a favore dei notai. I notai vengono esentati dalle istruttorie, per così dire, nel loro codice disciplinare, perché mio Dio, l'antitrust, perché dovrebbero rompere le scatole ai notai? L'equo compenso che è un altro intervento che a me non convince per niente, voluto dalla professione ordinistica, per cui ci deve essere la parcella conforme e non si può consentire ai giovani che entrano sul mercato di metterla più bassa. Quindi in realtà è presentata come una norma di equità, ma è un ostacolo all'ingresso nelle professioni. E poi, ragazzi, la web tax, non potete evitarvi di dirmi qualcosa sulla web tax, Mario. Cioè. Carlo, no, lascio la parola a Mario, dai, Mario, cosa dici? Sennò sembra che qua lavoro per i clienti. La verità è che questo è un tentativo tafazzista di far del male a quei pochi in Italia che cercano di innovare. Scusate, Google e Facebook, che sono amici, ma se ne sbattono di queste menate dei nostri tassatori cortesi, anzi scortesi. Non so, Mario, lascio a te, guarda. No, ma io... Guarda, hai ragione, io non sono io l'esperto, però per come è uscita la formulazione modificata dalla Commissione Bilancio della Camera, abbiamo un prelievo aggiuntivo, esatto, a carico dell'economia digitale, certo, emergente di questo povero disgraziato paese. Quindi Google, Facebook, tutti gli over the top se ne sbatteranno le palle, esatto, amabilmente, del fatto che noi abbiamo illustri politici che da piccoli si sono fatti regalare il kit dell'allegro antitrust e ora lo stanno usando ad mentulam canis. Questo è il problema. Cioè, Il fatto, poi la soglia delle 3.000 transazioni, come la si verifica? Cosa facciamo? Creiamo un controllo, l'agenzia delle entrate, qualcosa di aggiuntivo? Ma io veramente trasecolo, cioè questa è una mutazione che è ulteriormente peggiorativa rispetto alla formulazione del Senato, che già di suo era piuttosto bislacca. Quindi ogni volta che noi mettiamo, i nostri legislatori mettono mano a delle norme innovative, riescono a produrre l'effetto di creare delle disfunzioni e delle distorsioni che sono massimamente autolesionistiche. E poi lasciatemi dire una cosa, poi magari se l'interessato volesse replicare, ovviamente siamo disponibili, ma su spinta, come sempre, di Francesco Boccia, che è sempre al quadrivio di tutte queste grandi innovazioni, pare che la ridefinizione del contratto di servizio con Poste Italiane ficcherà nel servizio universale la consegna dei pacchi, attualmente fino a 2 kg, innalzata a 5 kg. Ora, non è chiara la ratio di questa misura, perché Poste Italiane si trova con un organico e con dei mezzi di consegna che sono inadeguati e inadatti al nuovo standard. Quindi qualcuno mi deve spiegare per quale motivo qualcun altro si è messo in mente di fare dell'antitrust straccione sulle consegne, andando a danneggiare corrieri privati che faticosamente negli ultimi anni hanno recuperato quote di mercato a Poste Italiane medesima, e ora dobbiamo tornare indietro. E poi presentiamo tutto questo come se fosse una misura contro le over the top, che non c'entrano una cippa in questo caso. Se dobbiamo puntellare i ricavi di Poste Italiane che sta annaspando con la MiFID 2, ma ditelo, abbiate l'onestà intellettuale di chiamare le cose col loro nome, esatto. Non di andare a creare delle misure del cazzo per poi creare unicamente problemi all'utenza, perché l'antitrust non si fa così, neppure in un paese dal socialismo surreale come è questo. Io sono veramente alterato di fronte alla stupidità di misure che hanno l'irrazionalità scolpita nel DNA. Ma io tendo ad essere un po' più sospettoso, secondo me sono proprio in conflitto di interessi proprio palese, appunto. Qualcuno qua difende il vecchi editori che da questa cosa qua potrebbero anche guadagnarci, perché ovviamente frenano lo spostamento della pubblicità sul digitale. Altri appunto difendono gli interessi di bottega cercando di sussidiare le aziende amiche. Il vero conflitto di interessi, scusate, è di chi ha votato questa legge senza vergogna e senza competenza. È una delle scene più veramente paradossali, hai ragione, dell'ultimo di questa fine legislatura. Veramente uno spettacolo indecente. Per fortuna scatta dal 2019, Oscar, e quindi assisteremo all'ennesima patetica manifestazione, per cui l'anno prossimo probabilmente questa web tax sparirà per vergogna, perché l'Unione Europea ci dirà: ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Speriamo che in aprile, tra aprile e giugno, tra gli accordi europei a cui spero che l'Italia abbia un governo per poter partecipare, ci sia anche ecco, appunto, non lo so, però detto questo, questa è la grande incognita. Poi spazi via questa roba. La cosa di Poste, il bello è che anche Poste ha protestato, cioè nel senso che ci ha fatto un favore a Poste, e si è capito perché è un favore neanche ben traguardato con Poste. Ma siamo veramente fantastici in questo paese. Devo dirvi la verità che io spero che anche tutta la normativa della PEC obbligatoria, che entra in vigore nel 2019, venga profondissimamente rivista l'anno prossimo. Cioè, questa è una legge di bilancio, cari ascoltatori, che, come lascia in vita le clausole automatiche di salvaguardia per il 2019 e il 2020, per il resto tutte le scelte maggiori le sposta tutte al 2019, perché come vedete alla fine, per non litigare, hanno lanciato grandi mongolfiere e poi però le hanno spostate all'anno dopo. Quindi mi pare di capire il segno elettorale prevalente. Ma, caro Mario, fulminaci sulle banche, in sintesi. Ma sulla commissione, dici? Su questo teatrino, ma io non ho molto da dire sulla commissione, cioè è stata un'occasione perduta, ecco. Ma tanto noi sapevamo che sarebbe finita così, ma non perché noi siamo degli aruspici, ma perché conosciamo i nostri polli. Cioè, abbiamo avuto momenti di isteria, abbiamo avuto gente che perseguiva il proprio ridicolo obiettivo, vedasi praticamente l'audizione di ieri dell'attuale amministratore delegato di Deutsche Bank Italia, che praticamente deve avere manifestato una pazienza enorme sentendosi rivolgere delle domande sul fatto che magari Deutsche Bank ha cercato di fare un golpe in Italia nel 2011. Ecco, Io penso che il prossimo manuale di psicopatologia, il famoso DSM, potrebbe essere incardinato sulle audizioni della commissione sulle banche. No, la verità è che la verità, Mario, è che più che le audizioni sono stati silenzi le cose interessanti, sono state le mancate domande e quindi le mancate risposte. Nessuno che ha chiesto niente sul dato strutturale, sulle politiche di bilancio, sui dividendi, decine e decine di miliardi di dividendi distribuiti, e poi scopriamo improvvisamente nel 2014, oh mio, ci manca il capitale. Ma dove è stato dato questo capitale se non alle fondazioni e ai partiti che le dominavano, e dove è stato, e a chi è stato dato se non per pagare i clientes locali? Questa è la verità che non è mai emersa. Un'Europa totalmente assente dal dibattito, come se Banca d'Italia e Consob fossero ancora padrone del proprio destino, quando in realtà sono per fortuna ingabbiate in regole europee. Una roba di un provincialismo, di un gossiparo, cioè veramente imbarazzante. Sì, diciamo che i parlamentari hanno fatto nella media e complessivamente la figura di persona che veniva dalla luna, cioè le domande e le domandine erano quasi sempre su aspetti, non dico insignificanti, ma comunque marginali rispetto al nocciolo delle questioni tecniche, cioè che cosa ha determinato questa cosa, e era un problema di inadempienza a regole europee o di non far finta ma di... Ma dai, Oscar, non c'era nessuno che capisse nulla, né di banche, né di regole, né di economia, e è stata veramente la fiera dell'artigianato economico. Anzi, l'artigianato merita più rispetto, secondo me, nel suo ambito, quindi adesso vedremo la relazione. Io spero che nella relazione ci sia un colpo di reni, ma lo dico così, senza troppo crederci. No, perché alcune questioni poi in realtà a dir bene, al di là dell'attenzione dei giornali e del mainstream giornalistico, che è andato tutto su Etruria, Meb, Renzi, e anche lì per me è incomprensibile come il PD abbia potuto volere questa commissione, oppure abbia fatto la sceneggiata della mozione parlamentare irrituale rispetto alle procedure di nomina di un governatore, sapendo nel frattempo che Renzi aveva chiesto due volte al governatore, che quello gli aveva detto che parlava solo con Padoan, sapendo che Mariana Boschi l'aveva chiesto alla Consob, l'aveva chiesto a Panetta, l'aveva chiesto a Ghizzoni, ed era sembrata reagire a De Bortoli come se non avesse mai parlato con nessuno. Ecco, queste cose per me sono incomprensibili dal punto di vista politico. Ci ho detto, guarda, che Maria Elena Boschi conviene a tutti come perfetto San Sebastiano della scusa, perché è ovvio che come di, capro, come capro sì, come non posso capro chiamarlo scrittore. Capro, perché diciamo trattasi di qualcos'altro, capro, no, assolutamente no, in realtà è stata un'arma di distrazione di massa, posso dirlo, perché il vero problema è che gli italiani avevano bisogno e avevano il diritto di sapere che succede i loro risparmi, non delle chiacchierate di Maria Elena Boschi, pur senza volerlo e pur senza che fossero domande ficcanti. Ne alcune cose che non sapevamo prima dal punto di vista delle responsabilità tecniche di quello che veniva tra Consob e Banca d'Italia, la commissione ci ha regolato. Sì, ma guarda, cioè, che noi... non è di Maria Elena Boschi, è di chi in Consob e in Banca d'Italia riceve politici con la processione fuori, quando dovrebbe chiudere la porta e dire none of, of your business, assolutamente noi di quelle cose non rispondiamo, né del territorio, né degli orafi, né di niente di niente, rispondiamo alle leggi italiane e europee e a nient'altro. E invece, questo qua, e invece ne definiamo legittime queste cose. Carlo Alberto, perché detto così chi è a casa non ha letto l'audizione non capisce. Carlo Alberto si riferisce a una frase sarcastica usata dal governatore della Banca d'Italia Visco nella sua audizione, che dice: sì, io peraltro ho ricevuto diversi presidenti di regioni, politici locali anche dell'opposizione, che mi parlavano sempre della preoccupazione delle loro banche territoriali, e fa un inciso, dice: espressione che a me non piace perché evoca l'idea della politica. E Carlo Alberto sta dicendo: no, scusa, ma tu per primo non li dovresti ricevere tutti quelli là. E io sono d'accordo con lui, però voglio dire, tra Consob e Banca d'Italia, noi nella commissione, visto Vegas e lo spirito per me un po' incomprensibile, fin troppo comprensibile con cui è intervenuto, e che cosa ha detto invece Barbagallo nelle sue quasi 24 ore di audizioni complessive e Visco, noi lì abbiamo capito che c'è un problema. Cioè, la Consob ha detto: Banca d'Italia non ci ha risposto sempre, ma però per carità è libera di non risponderci perché persegue la stabilità. Non è possibile sentire cose simili, cioè tra Banca d'Italia e Consob bisogna cambiare le cose di cooperazione, secondo me. È una buona notizia di ieri, vogliamo dirla, che abbiamo Mario Nava alla guida di Consob. Finisce un'epoca francamente grigia, mi spiace dirlo, perché Consob è un altro dei pilastri a cui abbiamo sempre fatto riferimento per chi ama lo Stato di diritto. Adesso arriva Mario Nava e torna da Bruxelles, torna da una carriera lunga nelle istituzioni europee, torna da esperto delle leggi europee, perché vogliamo ricordare ai cari cittadini italiani, la tutela del risparmio non è l'articolo 46. proposte della Costituzione, ma le nuove regole europee, difficili, complicate, forse da migliorare, ma l'aggancio è lì. Il provincialismo di chi chiede la tutela politica locale per salvaguardare i quattro soldini investiti nelle obbligazioni della banca di famiglia è inaccettabile e suicida. Meno male che arrivano dei professionisti dall'Europa a garantire che gli interessi della nazione italiana vengano tutelati, giustamente, ma dentro un quadro di regole europee. A me sembra una bella notizia, un piccolo grande regalo di Natale per gli italiani. Nava, perché non hai detto neanche il nome, Nava, Mario, ecco, sì. Nava, che è stato indicato nella serie di nomine apicali, tra cui quella del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e così via, alla testa della Consob. Va bene, a tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci qui tornati in studio con i compari dei conti della Bella, 10:36 primi e 39 secondi. Carlo Alberto. È collegato. E Mario. E Mario. Mario, ma del nuovo arrivo non ci dice niente però, vabbè. Io... No, guarda, è qua davanti a me che dorme fortunatamente, per cui ma è vero che è peloso e sonnecchiante? Sì, sì, è sonnecchiante quando vuole lui, diciamo, peloso sicuramente molto. Molto peloso. Però allora, per fortuna, se non mi sentite più è perché praticamente si è morsicato i cavi del computer e quant'altro, però per ora dorme, quindi va bene. E naturalmente non ci riferiamo all'esemplare di Homo sapiens sapiens di sesso femminile, no? ci riferiamo a un altro tipo di mammifero quadrupede. Parla con rispetto, ma come ti permetti, Carlo Alberto? Va bene. Allora, nel mondo reale, quello diverso dalla politica, poi in Italia continuano a accadere cose un po' diverse da quelle che si raccontano. Per esempio, nel frattempo, dopo l'attack di Roma finito in concordato preventivo, finisce in concordato preventivo di continuità anche la scassatissima azienda di trasporto pubblico partenopeo napoletana, una delle due, perché c'è anche l'altra, e AV, che potrebbe fare la stessa fine. Ma insomma, la ANM, anche lei quatta quatta sotto Natale nella distrazione dei giornali, ha l'assemblea convocata per andare al concordato preventivo. Anche lei, come a Roma, aveva avuto il sindaco, in questo caso De Magistris, lì era alla Raggi, che per un anno e mezzo, quando Giannino scriveva sui quotidiani delle due città, diceva che non era vero, che bisogna andare al concordato preventivo, invece finisce anche così. E del resto, che volete, ieri quatti quatti a Roma hanno dato lo scatto di stipendio a 15.300 dipendenti del Campidoglio. Non c'era da 9 anni per l'emergenza finanziaria dei conti non è affatto finita. Ma la giunta 5 Stelle, che pure si vanta di essere diversa dai vecchi partiti, sotto elezioni lancia il segnale. Pensate che, cari ascoltatori, la commissione che ha dovuto esaminare le 15.700 richieste che erano state avanzate di avanzamento dei dipendenti del Campidoglio ha esaurito tutte le pratiche in meno di un giorno di lavoro. 9 secondi per ogni decisione, record mondiale, e quindi 15.000 promossi. Allora, io non dico niente, dico che questa è l'età della sottrazione che mi fa morire la risata, nel bene e nel male. A proposito di banche, di cui parlavamo prima, riflessione che ieri noi abbiamo considerato molto utile, perché Fabio Bolognini, consulente finanziario per le piccole e medie imprese, autore di un bellissimo blog Imprese più Finanza, che spesso ci ispira nei sabati quando facciamo i conti della Belva, ha scritto un altro post relativo esattamente a quello che intanto si vede nei numeri del credito della finanza per le imprese. Sapete che viviamo in un paese in cui ufficialmente l'ABI dice che la crisi non c'è più, perché il segno degli impieghi complessivo è più da molti trimestri. Naturalmente a quel punto ogni volta bisogna dire sì è più, però perché ci sono insieme famiglie e imprese, per le imprese è ancora negativo, per le famiglie comunque è molto taroccato dal fatto che è viziato dal fatto che sono le surroghe dei mutui più che il credito aggiuntivo ai consumi delle famiglie. Ma detto tutto questo, allora abbiamo chiesto proprio a Fabio Bolognini di essere qui con noi, lo ringraziamo di essere qui con noi stamattina, per riepilogarci un pochino i temi di questo, lui l'ha chiamato 2018, quello che inizia tra pochi giorni, anno zero per credito e finanza alle imprese. Fabio, grazie di essere con noi in questo prenatale. Grazie a voi, buongiorno e buon Natale anche a chi ascolta. Perché dici anno zero? Perché dico anno zero perché metto insieme i numeri che avete un pochino anticipato, sono le statistiche di Banca d'Italia, e metto assieme quello che vedo e ascolto tutti i giorni e che arriva dal mondo reale, dall'economia, dalle imprese, che che si avvicinano, nel mio caso, ai primi tentativi di finanza alternativa alle banche, e quindi raccontano le loro storie sul credito. I numeri dicono freddamente, statistiche di Banca d'Italia, che sono scomparsi nell'ultimo anno altri 50 miliardi, che poi siano riduzioni per cessione di sofferenze, cartolarizzazioni, importa relativamente, nel senso che non sono stati rimpiazzati certamente dal nuovo credito questi 50 miliardi. Ancora più preoccupante che dei 50 miliardi 30 siano stati ridotti nel credito a breve termine, perché se la macchina economica sta ripartendo, e sta ripartendo, io parlo quotidianamente con piccole imprese che hanno fatturati in aumento del 15, del 20, anche del 30%, ieri ho sentito, se la macchina sta ripartendo ha bisogno di credito anche a breve termine. E quindi tu dici l'inizio che fa sperare, caro Alberto, è quello di andare anche a forme di finanza non proprio intermediate solo alla banca. Ma vedi, noi stiamo entrando in questo grande ciclo di riforma strutturale, si chiama Capital Markets Union, che ha preso l'avvio in questi anni e che deve debancarizzare sostanzialmente il sistema economico europeo, in particolare quello italiano, che come sai è bancocentrico. Questo grande progetto prevede che ovviamente ci siano molte forme alternative di finanza alle imprese, sia nel breve termine, sia nella natura della finanza, che non può essere solo debito, ma deve diventare equity, deve diventare mini bond, o comunque in generale l'emissione di debito a medio e lungo termine. Noi abbiamo bisogno di educare l'economia italiana al fatto che non si va col cappello in mano in banca a chiedere soldi, bisogna ripensare la struttura finanziaria, e serve un grande processo di educazione, non misurare le piccole percentuali di variazione di un credito finto in realtà, perché non sta cambiando natura, non sta solo cambiando poco il volume, non sta cambiando abbastanza la natura. Fabio, su questo non hai un qualche commento da farci? Cosa possiamo dire ai imprenditori italiani e anche alle piccole e medie imprese? Come devono ripensare il proprio stato patrimoniale, in particolare la passività del proprio stato patrimoniale, per poter affrontare questa nuova crescita? Ma io ho detto l'anno della svolta perché penso e rilevo segnali, ripeto, quotidianamente, che l'interesse dei piccoli imprenditori, dei piccoli e medi imprenditori, sia esattamente rivolto a cercare di capire come tenere in equilibrio le proprie aziende. Quindi laddove non hanno avuto più credito, qualcuno ha effettivamente trattenuto gli utili, messo capitale, e a questo punto stanno cercando delle forme alternative, rivolgendosi a un piccolissimo, ma un mercato che cresce a 2 o a 3 cifre addirittura, quindi l'interesse si sta spostando. Diciamo ancora un po' presto per dire che stiano, diciamo, modificando volontariamente la struttura patrimoniale. Lo stanno facendo in maniera, diciamo, spontanea, perché si rendono conto dell'importanza dell'avere liquidità e cassa, e si rendono conto che presentarsi anche al mercato della finanza alternativa con dei rapporti debito capitale proprio totalmente sbilanciati, a me capita di vedere rapporti di 10-1, 15-1, sono totalmente fuori dalla logica anche della finanza alternativa. Ecco, si apre diciamo, una strada che è anche agevolata da molti consulenti per diciamo, ristrutturare o riequilibrare la propria situazione patrimoniale e presentarsi a un mercato con le carte in regola. Ecco, vogliamo però dire questo, due punti. Uno, ricapitalizzare le imprese, quindi riequilibrare il rapporto fra capitale proprio e capitale terzo. Due, trasparenza. Il mercato della finanza alternativa, ma anche quella della finanza bancaria, ha bisogno che i dati di bilancio non siano rendicontati un anno e mezzo dopo, ma siano alimentati con un flusso costante, una trasparenza costante, e questo aiuterà proprio chi si propone di fare finanza alternativa a fare competizione alle banche, perché hanno bisogno di un flusso di dati sistematico e diretto con le imprese. Quindi dobbiamo dire agli imprenditori di scambiare dati se vogliono scambiare denaro. Non so se sei d'accordo su questo. Lo sono, ma tieni conto che quando si parla di piccola impresa, quindi al di sotto di 5 milioni di fatturato, questi dati sono raramente nelle mani dell'imprenditore, sono quasi sempre nelle mani dei professionisti che li seguono. e quindi diciamo e la richiesta va anche allora va coinvolta questa categoria, che deve abituarsi non a fare il notaio burocrate del fisco e quindi a semplicemente a ottemperare agli obblighi normativi in termini di bilancio, ma deve fare veramente il consulente, scusami, il consulente in primis in questo momento deve ripensare il rapporto fra capitale e impresa e non semplicemente limitarsi a compilare dei bilanci formali. Sono assolutamente d'accordo, ma si stanno muovendo cose anche in questo settore, quindi penso veramente che ci possa essere una svolta. Ma possiamo dire agli amici commercialisti che tocca un po' anche a loro sollecitare gli imprenditori. Tocca moltissimo secondo me a loro, molto più di quanto non si dica abitualmente, perché l'imprenditore da solo nella piccola impresa, guardate, se non è pesantemente stimolato. Io sono molto preoccupato per esempio degli effetti che potrebbe avere, questo mi dica Fabio, perché è uno dei temi che hai, che sfiori anche senza troppo approfondire, però sfiori secondo me, giustamente lo sfiori nel tuo post, ma lo sottolinei come una delle cose che avvengono tra poco, perché scatta in vigore nel 2018, sto parlando dell'intervento nel 2018, cambia le regole del Fondo Centrale di Garanzia. Per come funziona di solito il finanziamento bancario in questi anni alla piccola impresa, io quello credo che potrebbe essere un ulteriore giro di restrizione del credito alle imprese. Anche lì i consulenti sono fondamentali, perché non si può credere all'imprenditore che lo scopra se non quando è troppo tardi per lui, cioè quando la banca gli dice no. Non credi, Fabio? Sì, anche se diciamo, la riforma del Fondo Centrale di Garanzia ha delle finalità ottime sì, e, certo. quindi punta realmente a dare un supporto a imprese cosiddette sane, ma magari sane da un punto di vista produttivo, da un punto di vista commerciale e un po' meno da un punto di vista finanziario, che è un caso molto frequente. Questo significa che l'utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia, che è stato fatto sin qui sulla stessa missione del MISE, più per alleviare i requisiti di capitale su imprese che non ne avevano forse bisogno di queste garanzie, da qui in avanti significa per la banca che lo vuole utilizzare assumersi dei rischi che sono proporzionalmente più alti, percentualmente più alti laddove la situazione è migliore. Credo che questo rimetta in gioco il sistema dei confidi, che sin qui ha sofferto parecchio della concorrenza del Fondo Centrale di Garanzia, ma insomma anche qui siamo in presenza di una novità, di un mondo nuovo che va sperimentato. Non ci sarà più l'automatismo. Esatto, di che c'era prima. Va bene, Fabio ci deve lasciare, noi torniamo tra poco e io vi riepilogo quando torniamo i dati della Lombardia e delle quattro regioni del nord italiana, perché forse è il caso di sottolineare di quanto siamo ancora distanti da ciò che consente di dire è tutto risolto, tutte le nostre spalle. Sì, insomma, mica tanto, tra poco. Della belva. Allora, cari ascoltatori, che cosa ci dicono per esempio i fondi, i numeri dell'Osservatore del Credito, che sono quelli rilevati con rilevazione proprio e comparati poi con quelli AB Banca Italia del terzo trimestre di quest'anno sul credito alle imprese raccolti da Assolombarda? Ecco, io vi dico solo questo, cioè distinguiamo il congiunturale dal medio-lungo periodo. Medio-lungo periodo, comparazione rispetto al pre-crisi, quindi terzo trimestre del 2008, e invece il tendenziale congiunturale, la tendenza rispetto all'andamento, il trend rispetto ai tre trimestri dell'anno precedente. Allora, intanto, nel breve, il sia pur lento, graduale miglioramento del credito concesso alle imprese si inverte. Quindi c'è qualche cosa che sta spingendo nel breve il sistema bancario a stringere dopo trimestri in cui piano piano si stava riemergendo dal gap accumulato di lungo termine di impieghi alle imprese, diverse per settore e settori. Perché sta avvenendo questo? Bella domanda, ma intanto sta avvenendo. E sta avvenendo meno nelle imprese che sono quelle protagoniste del più ultimo dato Istat aggiornato di ieri, del 12,8, più 12,8% di export anno su anno nel nostro paese, che è un dato mirabolante. Però man mano che da esportatrici si passa a chi va sul mercato domestico o addirittura ai servizi, torna il regno meno, il segno meno anche nel breve congiunturale. Quindi si capisce che il sistema del credito non beve da questo punto di vista, non si fida del fatto che la ripresa sia non se laddove essa produce risultati double digit di miglioramento, e questo riguarda il breve. Ma andiamo a vedere cosa ci dicono questi numeri rispetto invece al 2008, al terzo trimestre del 2008. Oggi, alla fine del terzo trimestre del 2017, come stiamo messi? Ecco, allora, se andiamo a vedere il totale degli impieghi all'economia, al netto delle surroghe per le famiglie, quindi sto dicendo totale economia, Lombardia è meno 14,1%, esatto. Emilia-Romagna è meno 10,3%. Veneto è meno 15,4%, Piemonte meno 6,4%. Andiamo a vedere, scorporiamo adesso per tipo di attività. Se andiamo a vedere l'industria in Lombardia, l'industria rispetto al 2008, stock crediti concessi, in Lombardia rispetto al 2008 siamo a meno 16,9%, Emilia Romagna meno 17,3%, Veneto meno 16,5%, Piemonte meno 17%. E andiamo a vedere i servizi, Lombardia rispetto al 2008, in Lombardia al terzo trimestre 2017 servizi meno 20,7%, Veneto meno 19,1%, Piemonte meno 6,1%, Emilia Romagna meno 8,3%. Ecco, io non vi voglio annoiare oltre perché ci sono i dati poi interessanti anche del miglioramento o peggioramento delle classi di rating delle imprese. C'è un considerevole aumento delle imprese che aumentano la qualità del proprio rating, ma ce n'è un quarto che non si schiodano dal peggiorare ulteriormente. Un quarto è una percentuale enorme. Però questi numeri cosa ci dicono, caro Alberto? Ci dicono che la narrativa del regime non dà trasparenza ai dati, questa è la situazione, e che è un capitalismo che sta cambiando profondamente e che si sta rivolgendo ad altre fonti di capitale. Le banche in questo senso hanno la colpa di non avere capito che assecondare le imprese che crescono voleva dire proprio cambiare metodo, e in compenso quelle quarto di aziende che non riesce a migliorare il rating o addirittura lo peggiora, secondo me è destinata alla marginalizzazione. Quindi prepariamoci che siamo solo all'inizio di una profonda crisi di trasformazione, una crisi in crescita, una crisi che spellerà comunque le imprese marginali. Purtroppo anche secondo me i dati dicono questo, e secondo me bisognerebbe introdurlo come chiodi che reggono i quadri, cioè punti di riferimento. Noi dobbiamo raccontare alla gente, certo. Lo dico ai colleghi del Sole, a tutti quelli dell'informazione, che i numeri che dicono che tra virgolette la trasformazione schumpeteriana, se volete la moria per mancanza di fondamentali di sopravvivenza, è ben lungi dall'essere finita, perché ben altri balzi di produttività, certo, noi dobbiamo compiere nel paese, dobbiamo, altro che dare i premi in 9 secondi l'uno ai 15.000 dipendenti pubblici del Campidoglio, cazzo! Ecco, noi dobbiamo fare un tale balzo di produttività, e sappiamo dove, perché i numeri ce lo dicono. Ecco, allora, per esempio, la domanda che io faccio a Mario, te la faccio anche perché tu hai lavorato direttamente nel settore, io mi sarei aspettato che proprio sul tema produttività, banche che a propria volta devono cambiare il proprio modello, perché il problema delle banche italiane resta la redditività fondamentalmente, la capacità in primis di creare reddito, no? Ecco, allora, possibile mai? Perché Mario, secondo te anche in questo caso non ne sapevano niente i commissari? Com'è possibile che fanno una commissione parlamentare di inchiesta e non guardano questi sul caso MPS? Abbiamo imparato per esempio quello che non sappiamo, che Banca d'Italia sapeva perfettamente che quindi quei derivati andavano spalmati e poi si è fermata per politica, questo per essere chiari. Non poco, mi sarei aspettato di più su questo, ma sono stati tutti muti. Ma detto questo, perché secondo te una commissione parlamentare sul tema redditività della banca incrociate con la trasformazione dell'economia del paese, quindi capacità entrambi di modificare sostanzialmente i propri processi organizzativi, operativi, eccetera, neanche una parola? Solo per ignoranza, Mario? Ma tu pensi davvero che in un contesto di quel genere, con dei parlamentari con quel livello di preparazione, li possiamo prendere uno ad uno e verificare questa gente che livello di preparazione ha in materia. E può fare domande simili, no? Ok, aspetta. Tu pensi davvero di poter fare domande del genere, va bene, trasformative? Va bene, mi stai bacchettando, hai ragione. Hai ragione. Bene, Mario. Torniamo. Hai ragione. Bacchettando la pessima qualità dei nostri legislatori. Ragione. Torniamo dopo. Della belva. Ed eccoci qui, tornati in studio con i nostri compari Oscar. Caro Alberto. È collegato. Mario. Ed eccoci anche alla parte. Ma ho capito bene, Mario o Miao? Non ho capito. No, Mario. Miao, guarda, si è svegliato e adesso è in giro, quindi lasciamolo stare. Sono a rischio. Però se sentite, cari ascoltatori, che è il nuovo compara di Conte la Belva, perché si è aggregato, bellissimo, un bellissimo griglione con gli occhi. E io non posso usare i toni troppo teneroni, come sono portato io a fare con i fini, perché sennò Mario si arrabbia. Però vedrai, Mario, verrai conquistato dalla belvetta e dai suoi artiglietti. Sentite il signore. E ancora una volta ci riferiamo a un mammifero quadrupede peloso, e solo per precisare, insomma, adesso, a che artigli. La nostra rubrica di ogni sabato, oramai stiamo utilizzando in maniera... Ecco. Stiamo utilizzando il nostro amico Alessio Argiolas. E allora, per Argiolas lo introduciamo con un classico della storia, del tema di cui parla sempre Alessio. Sempre. Io sono un cittadino che paga le tasse. Lo Stato mi deve proteggere. Voglio i carabinieri, la fanteria, i bersaglieri. Andiamo, non esageriamo, signor Bonocore. E non alziamo la voce. Oh, Alessio, come stai? Grazie Oscar. Ma dopo che Totò è tutta sta cosa, tu hai sempre quest'aria leggermente. Caro contribuente, ricordati che devi morire. Cioè, ci vuole un pochino più di passione. Allora, noi abbiamo un ascoltatore che è amministratore unico di un'impresa, che mi ha scritto e io l'ho detto, sabato ne parliamo, le rispondiamo. Si chiama Giambattista Cascone, e firmava e alla fine diceva sono disgustato. E allora, oltre a ringraziarlo di aver scritto e di aver accettato di regalarci qualche minuto per parlare del suo caso, buon Natale a Cascone. Ma che cosa le succede, Cascone? Perché è disgustato, ci ha scritto? Buongiorno. Prego. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti allora. Gli ascoltatori. Sono disgustato per un semplicissimo motivo, perché io faccio l'amministratore unico in una piccola azienda alimentare che si occupa di salumi. Di salumi. Azienda che è a Ragusa, per cui siamo nel profondissimo sud-est, azienda che è lontana dalla patria dei salumi, della zona là di Parma, Reggio. Parma, Modena, eccetera, eccetera. Esatto, l'azienda è nata per la follia. Piccolo imprenditore che è malato di fare salumi particolari, perché non facciamo logicamente concorrenza alla grande industria, bensì lavoriamo per i prodotti del territorio, che è il suino nero siciliano, che è conosciuto meglio dei nipoti, però è in tutta la Sicilia. Lavoriamo pure l'asino e facciamo questa famosa mortadella di asino, che il mio amico Castro dice che è la mortadella originale, non è quella di Bologna, poi non lo so se è vero o non è vero. Però è una vocazione territoriale coltivata con grande passione, esatto, e caparbietà. Esatto. Viva. E quindi sicuramente l'Agenzia delle Entrate vi adora, vi spinge, vi supporta, vero carissimi? Ma perché non fate la mortadella con i funzionari? Fermo lì. Allora, che succede? Allora, stavo dicendo, da piccola azienda artigianale, no? Siamo trasferiti alla zona industriale di Ragusa, abbiamo preso in affitto un capannone e abbiamo cominciato a lavorare nel novembre del 2014. Già verso il mese di giugno del 2015 mi arriva una cartolina gialla, stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, che vogliono sapere quanto dipendenti abbiamo per calcolare un contributo qua e là. Boh, io che non sono del settore, perché provengo dal mondo delle banche, vado a controllare, ma che cos'è sta sigla qua? Dice, c'è un contributo da pagare, un ente soppresso tanti anni fa, che ora è stato trasferito alla... Tutto quello che so io, la Cassa del Risparmio di Parma, Io ho detto, a me della SICA, insomma, io di questi qua non ho nessun servizio. Nessun servizio? Perché devo dare i soldi a questa SICA? Perché devo dare i soldi a questa che è un ente soppresso? Allora, pensando che fosse la solita fuffatina, le solite cartoline fuffaldine che mandano, a parte lo leggo contributo, non è che ho letto una tassa. Cioè io, se la mia ignoranza, il contributo è qualcosa, tu lo vuoi dare o non lo vuoi dare, giusto? Certo. Boh, comunque, niente, lascio perdere tutto. E invece? E invece poi mi arriva una cartella esattoriale. Una cartella esattoriale. Lei è stato iscritto a ruolo. No, mi sta a ruolo, con riscossione Sicilia, no? Ecco. Io arrivo questa cartella esattoriale dove vedo che gli vogliono questi 274 euro, che è il contributo base, no? E poi all'interno della cartella c'è una scaletta progressiva che viene calcolata sull'importo lorde delle retribuzioni di tutti i dipendenti, che varia, parte da 274 euro poi fino a 232.000 euro, poi va avanti, insomma, che arriva pure a un importo che noi non ci arriveremo mai, a un importo di 5.000 euro quando magari Dio avessimo avessero sviluppo il problema diventa perché caro lei signor Jonas, perché, com'è possibile che automaticamente, se uno fonda uno stabilimento perché ama i prodotti del territorio eccetera eccetera, compare dal nulla questa stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari SICA con due S, ma la SICA in latino è il coltello che usano appunto i sicari, che ti dice tu mi devi dei soldi. Dici, ma perché, non ti conosco, tu me li devi. Dici, ma perché, che cosa fai per me? Niente, tu me li devi. Ma dici, ma tu sei stato soppresso, ma sono diventato una fondazione, tu me li devi. Dici, ma come sarebbe a dire, ma ne manco, non è che me li devi, diventa una cartella sicura. Allora, sono a Parma, non è la camera di commercio qua, appunto. Perché sono a Parma, sono per cui... nel cuore della concorrenza industriale. Allora Alessio, cosa possiamo dire al nostro amico Giambattista Cascone? Guarda, purtroppo dobbiamo dirgli che è l'ennesima conferma dell'applicazione a danno del contribuente di quello che io chiamo il principio marchese del grillo, perché marchese. Io so io e voi non siete un capo. Ho capito. È la saga degli enti inutili e enti zombie, la cui liquidazione era compito dell'ICED, che a sua volta è stato soppresso nel 2007. Entriamo nello spirito natalizio, ponendo quindi in dubbio l'utilità di enti come il SICA. Attenzione, è stato fondato come ente pubblico con un regio decreto del 22, convertita in ente pubblico economico nel 99, poi in azienda speciale della Camera di Commercio di Parma, e assurto nel 2016 a Fondazione Nazionale per la Ricerca Internazionale, come leggiamo nel loro sito, Oscar. Abbiamo invece, sulla natura, abbiamo posto sufficienti dubbi. Abbiamo molti più dubbi sulla natura del balzello SICA. Ma c'è... No, aspetta, è dovuto indipendentemente dall'erogazione di un servizio, non possedendo quindi i requisiti della tassa. Attenzione, a questi brevi forzosi vanno aggiunte le famose tasse occulte alla perdita di tempo per raccogliere e inviare la documentazione. Se l'ascoltatore non ha dipendenti, lui l'unico, deve mandare comunque... il famoso calcolo premi dell'INAIL, perché deve mandare non due o tre elementi, se glielo deve predisporre chi gli tiene i conti, c'è del lavoro dietro purtroppo, e va pagato anche quello a tasse occulte. Certo. Quindi dovete sapere che i contributi SICA a carico delle imprese sono a carico di tutte le imprese produttrici di alimenti conservati, dei succhi di frutta e surgelati. Ma non c'è maniera, in questo caso non c'è maniera di impugnarsi, di perché il contributo è obbligatorio, perché qual è il fondamento di questo balzello obbligatorio? Qual è? Che io devo contribuire a questo cavolo di istituto la cui natura è cambiata nel tempo, come ci hai appena ricordato. Domanda, perché? Allora, il problema di questa, che inizialmente nacque appunto per le conserve alimentari, adesso ripeto, va da tutto, dai congelati, succhi di frutta, le conserve di pomodoro, qualunque cosa. Cioè serve per dare loro i soldi per pagare i loro dipendenti, punto. No, è peggio. Allora, i contributi, essendo di due tipi, perché l'ascoltatore, essendo nei minimi, non ha problemi e si pagherà solo i 274, ma sono due tipi, sono industriali, che appunto utilizzano come base imponibile l'ammontare lordo degli stipendi erogati l'anno prima, dirigenti impiegati operai, cani e gatti, e poi doganali, attenzione, a carico dei commerci di importazione, confermati anche per il 2017 nella misura del 2,5% sul valore delle importazioni, poco sotto la web tax. Questa è la tattica, io la chiamo dell'assedio al contribuente. preso per i nidi e sfinimento. Quindi questo ente ha lo scopo di promuovere il progresso scientifico, tecnico e tecnologico dell'industria conserviera italiana per i settori di frutta, ortaggi, carne e pesce attraverso attività di ricerca applicata, consulenza, formazione e divulgazione. Cioè, io faccio tutta una serie di domande, secondo gli insegnamenti vostri, dei conti della Belva, che stimolano lo spirito critico di tutti, stimoliamo ordunque lo spirito critico degli uditori con queste riflessioni. Perché si applica questo balzello anche alle microimprese o addirittura imprese artigiane che industria non sono? Perché un ente privato di ricerca sopravvive grazie ad un balzello che lo finanzia per oltre il 65%? Perché un ente per la ricerca internazionale non si finanzia, se ci riesce, secondo le regole del libero mercato, tramite per la qualità della sua ricerca, richieste e erogati a pagamento. Perché? Perché non eliminare un contributo obbligatorio, allevando le imprese a questa sovrapposizione di costi? E poi la domanda lecita dell'ascoltatore: con quale artificio giuridico un'azienda speciale della Camera di Commercio di Parma ha potuto imporre balzelli ad imprese al di fuori del proprio territorio di competenza e sull'intero suolo patrio? Poi la natura ibrida non pervenuta del balzello ci induce a chiedere di dimostrarci la legittimità per una Camera di Commercio di poter esigere tasse o imposte che nell'ordinamento italiano mi risultano essere di competenza esclusiva di Stato, Regione, Province e Comuni. Allora, però, se tu continui con le domande retoriche, io invito alla rivoluzione legale. Cioè, io dico alla gente che bisogna iniziare a non pagarle in massa. Cioè, bisognerebbe che chi rappresenta le imprese di questo tipo facciano una cosa collettiva dicendo: noi questa roba non la paghiamo più. E anzi, come associazione delle imprese conserviere, piccole, micro, eccetera, assistiamo i nostri iscritti nell'azione automanifesta che dice: questa roba deve cessare, punto, perché noi gli diamo assistenza legale se lo Stato gli va contro, perché naturalmente ti ha iscritto al ruolo e vai al pignoramento e all'escussione. Cioè, questi casi qua, cari ascoltatori, sono eclatanti, cioè vi abbiamo dimostrato un ente la cui stessa natura è uno scherzo della natura giuridica, che deve andare dal nostro amico che sta in provincia di Ragusa, non avrà mai alcuna relazione con quello che fa lui. Dice: tu mi paghi, perché? Ma non si riesce neanche bene a capire, però intanto mi paghi. Ma è possibile mai vivere in un paese così? Guarda, ti leggo le parole testuali perché è importante che Alessio lo sappia. Circa 3.000 aziende italiane sono contribuenti di SICA, contribuenti non contributori, e già nell'uso della semantica ci fa capire che questi qua ci considerano loro contribuenti. È bella questa cosa, però sto passando dal sito di SICA, giusto per capire. Pazzesco. Allora, io invito qua, le rappresentanze di impresa o fanno queste cose qua o altrimenti a propria volta sono solo pezzi amministrativi della vita dello Stato, capito? La rappresentanza serve a dire: caro Cascone, caro Giambattista, tu e tutti quelli che siete così, adesso trovate qui chi vi dà una visibilità e una tutela rispetto al fatto che SICA deve morire! Questo bisogna dire, così bisogna dirlo, è inutile girarci intorno e dite: no, bisogna essere più diplomatici. Ma dai, non morire, ma che vuol dire? Che si prende i soldi dal mercato? Deve morire dal punto di vista fiscale, delle modalità del prelievo forzoso, esattamente. Non si capisce perché attribuirgli la natura dell'escussione al questo signor è il concetto, SICA. Cioè che si presenti sul mercato e con le sue ricerche si guadagni da faccia vivere. Faccia un po' di impact farto con i suoi ricercatori, vediamo su che i giornali scientifici pubblicano le loro belle ricerche. Altrimenti e altro che conserve vegetali, qui siamo alla conserva fiscale, ma amico di mio. Se stesso, ma di se stesso, rivolta fiscale di fronte a queste cose, autodichiarata, gandiana, esposta alle sanzioni, però in maniera tale da fare finire queste schifezze, perché queste schifezze aggredono la vita dei tanti Giambattista Cascone che sono gli eroi italiani, punto, rispetto ai quali l'ordinamento riserva una minuziosa capacità di complicazione di ogni aspetto della loro vita di successo. Quindi Giambattista, lo so, non ti abbiamo risolto il problema, però eccoci qua a dire che hai perfettamente ragione. Grazie anche alle Sergio Olas, torniamo tra poco. Della Belva. I'm dreaming of a white Christmas. Allora, i crooner sono uno dei miei generi di singers preferiti, crooner. Devo dirvi la verità, questo è grande Frank, I'm gonna wait Christmas. Io abbiamo sentito in sottofondo le fusa del gattone grigio che, avendo sentito Frank Sinatra, si sta strusciando sul nostro amico Mario. Dai, dai, che ti allietta la vita un bel gattone sorridente, su, su, su. Allora, sorridente, diciamo. Disse, avendone il canino piantato in un dito. Vogliamo smitizzare questo Natale, per favore, no, cari belve. Siamo qui a fare che cosa? I bravi ragazzi? Non esatto, vi pago per questo, esatto. Cioè, fuori i canini, anzi i felini, non so come dire. Si può dire, che denti hanno i gatti? Allora, no, no. Hanno dei bei canini sciabolati, perché i felini li utilizzano, devi sapere, utilizzano quello per fare abrani, hanno più quello sviluppato dei molari, che non sono grandi masticatori, quindi hanno dei bei canini, altro che. Allora, cari amici, noi andiamo verso questa cosa del, lo so, desolante, melassa, natalizia, in cui tutti fingete di essere buoni nel male ai vostri parenti. Ma il punto di fondo è che da sempre vi hanno raccontato che il Natale è una delle circostanze nel quale, invece di fare turpe consumismo, dovreste riconciliarvi con il fatto che l'avidità del capitalismo e del mercato va rigettata, e di solito si utilizza, da questo punto di vista, una delle più grandi truffe nell'esegesi letteraria della storia della modernità, cioè le diverse trasposizioni cinematografiche, cartoni animati di Christmas Carol, nel quale Dickens nel 1845, quindi stiamo andando alla grande Inghilterra vittoriana, per così dire attacca, sconfessa, ribalta l'avidità che viene impersonata in una delle storie di Christmas Carol, quella di Scrooge. Scrooge è un finanziere, avidissimo, Ebenezer Scrooge, quindi già il nome identifica agli occhi del Regno Unito dell'epoca, classistissimo naturalmente, che non può aver fatto successo nella vita grazie al fatto di appartenere ai ceti dominanti, perché si chiama Ebenezer Scrooge, quindi non appartiene al ceto dominante, ma ha fatto successo, sì, perché è un avido, è un cambiavalute, un piccolo banker che strapaga al minimo i suoi dipendenti, non pensa che alla lavorare, a malapena concede ai suoi dipendenti di non lavorare il giorno di Natale, è avido, freddissimo, indifferente all'umanità. E che cos'è ciò che vi raccontano e ai vostri figli hanno sempre raccontato? Che Dickens invece dimostra, con i tre fantasmi che a quel punto visitano Ebenezer Scrooge, i fantasmi del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro, e lo piegano alla solidarietà. Ed ecco che di fronte al quadro prospettatogli di morire senza gioia, addirittura con la camicia rubata, con tutti che ridono di quella morte, di questo essere schifoso e pieno di avidità che era Ebenezer, di fronte a questo terrorizzato, lui allora fa comprare il miglior tacchino per il suo dipendente, che ha un figliolino Tim, anche purtroppo un po' disabile, e diventa l'uomo che cambia, e da quel momento l'empatia, eccetera, eccetera. Una vera truffa letteraria. Questa è la trasposizione fatta dai welfaristi moderni di che cosa non c'è scritto agli occhi del lettore della storia di Ebenezer Scrooge di Dickens nel 1845. Perché agli occhi del lettore di Ebenezer Scrooge c'era scritta un'altra cosa. Primo, se il banker faceva successo era perché era avido, e cioè l'avidità era necessaria. Due, quello che appariva è che il giorno di Natale si dimenticava dei poveri, cioè il buon anglicano, summa di quando il fantasma lo porta di fronte alla sua tomba, il buon anglicano deve ricordarsi di fare la carità ai poveri, che infatti fa mandandogli il tacchino e pagandogli le cose per il figlio. Tre, l'empatia si fa, ma sempre sotto forma di carità ai poveri, quando bisogna farla una volta l'anno. Non era la sovversione dello spirito dell'economia e della parsimonia quello che capivano i lettori dell'epoca, era l'invito a non dimenticarsi di fare la carità. Invece diventa un inno al comunismo solidale questa roba qui, perché ovviamente viviamo in tempi di egemonia culturale diversa, però io vorrei spezzare una lancia a favore del fatto che Dickens, che pure criticava, e qui, questo qui l'espressione ripetuta che Ebenezer fa sempre, non ci sono forse per i poveri le prigioni, era quelle contro le quali la Poor Law dell'epoca aveva aperto un dibattito in Inghilterra, però quando lo dice il lettore si immedesima con quello che dice Ebenezer, dice sì, infatti noi per i poveri ce ne occupiamo, li mandiamo in galera, per così dire. Cioè non era questo che era in discussione. Allora ne parliamo di tutte queste cose. Ha ancora un senso soggiacere al mito egemonico della lettura solidaristica solidarista, comunista, quando invece neanche quelli che utilizzano loro per dire che è negativo li leggono davvero ma li stravolgono. E poi domanda vera, ma è vero che sono gli uomini i portatori di questa avidità inconcepibilmente incapace di essere solidale? Ma non è che le donne sono più avide di noi, punto numero due, perché io di questo sono fondamentalmente convinto. E quindi chi ha invitato per parlare di queste cose così leggere? No, sono cose leggerissime, perché hanno a che vedere con quello che raccontate ai vostri figli, perché voi gli raccontate il giorno di Natale, capite? Non capitalisti cattivi, brutti, questi maschi che sono tutti avidi, eccetera, eccetera. Cioè c'è una palla generale, una palla di genere. Allora, abbiamo chiesto un giornalista che io stimo molto, con cui mi piace incrociare il ferro, perché poi naturalmente lei mi trafigge, Lia Celi, che fa anche satira, perché è capace, essendo di sinistra, di prendere per i fondelli tutti quelli che come me non lo sono, e quindi è fantastico. Quindi io mi condanno a perdere, però dico che Dinkes non ha detto quello che dice. Dico che il grid è la cosa fondamentale della storia dell'umanità e non raccontiamoci storia. Tre, oltretutto, se pensate di mettermi sotto dicendo che devo risolverla facendo la carità un giorno l'anno, vi strarido in faccia, perché non è quello certo il sistema. Lia Celi, grazie di essere con noi, buon Natale. Ma buongiorno, ma io credo che ci sia un clamoroso equivoco di fondo, perché tu hai parlato di incrociare i ferri con me su Dinkes, ma direi che siamo perfettamente d'accordo. Non è vero. Questa lettura non ci provare, perché questa è classica, classica cosa femminile, maschio, non litigo perché non sei alla mia altezza, ti conosco. No, aspetta, io ho un conto da regolare con Christmas Carol, perché è stata veramente servita in tutte le salse. A me piacerebbe quest'anno vedere una Christmas Carol versione grillina, versione 5 stelle, c'è anche il socio morto, fra l'altro, quindi si possono rifare un sacco di... Sì, con tutti gli alberi secchi e questo che stai, i topi per strada, capire. C'è stata la versione Muppet, la versione Lego, perché no, la versione 5 stelle, che sarebbe anche molto... molto interessante, però è l'unico modo per riscattarla. E poi in famiglia sono tutti fissati con Christmas Carol, abbiamo tutto fin dalle cassette proprio, tutte le versioni apparse, animate, non animate, e con questa scusa i miei figli non leggono gli altri romanzi senza i quali non si capisce il capitalismo, perché c'è Balzac, ma c'è anche Dickens, più difficili, David Copperfield, la vera teoria economica di Dickens è quella del signor Micawber in David Copperfield, no? Se hai 100 e spendi 100 euro, miseria, se hai 100 e spendi 99, prosperità, grosso modo. E invece questa Christmas Carol è diventata un po' così, è veramente un manifesto del buonismo, quando in realtà il buonismo vittoriano è perfido, perché in realtà lascia esattamente le cose come stanno. Esattamente. No? Capisci? Il problema è, mandate il tacchino, siate buoni, ma mandate il tacchino se lo mandate a casa mia quando sono a casa. Cioè il ridicolo è che io sono più io a favore della soluzione radicale dei problemi, che sono un liberista, di quanto non siano quelli come te che invece spacciano le cose buone. Quelli come te che spacciano. Quelli come te. No, veramente, io la cosa che mi colpisce di più di Christmas Carol è che tu compri il pranzo il giorno di Natale, quindi i negozi aperti il giorno di Natale, pensa adesso con Amazon, con le proposte di Di Maio, insomma l'Inghilterra vittoriana era messa decisamente peggio, insomma. E poi come posso dire, il povero Scrooge, poi più che avido in realtà è avaro, è quello il peccato capitale meno sexy del mondo. Oh, vogliamo dire che Dickens in realtà è l'inventore del Natale borghese, è l'inventore del consumismo, cioè dell'idea che non bisogna essere avari, non soltanto non bisogna essere, se vuoi, avidi, è l'idea che bisogna spendere. Proprio questo è bello della cosa, che Dickens, secondo me, è il fondatore della, e secondo me in questo senso profondamente antireligioso, perché alla fine ha trasformato il Natale in una esibizione formale di una carità pubblica, invitando a spendere per evitare di essere come dire, classificati come avari. Quindi è bleriano in un certo senso, no? Bisogna far girare. Esattamente, cioè un keynesiano ante litteram, capisci? Spendete perché almeno l'economia sale. Ecco, non mi è mai stato simpatico. No, è che è un paradosso, è un'eterogenesi dei fini. Lui che vuole scrivere di rimando sociale. Manca solo che mi diciate che è invitato alle cose a Pescara e poi abbiamo chiuso il Io poi, guarda, come scrittrice comica, io apprezzo, senza gli avari non ci sarebbe la commedia, scusa, fin dai tempi di Menandre, di Plauto, insomma, gli avari e i lussuriosi sono i due grandi ingredienti della commedia e della comicità da notte dei tempi, quindi per carità, massimo rispetto. Perché poi l'avaro chi è? È un grande sognatore, perché se il denaro è opportunità e possibilità, lui non le vuole consumare per averne, come dire, una quantità illimitata di possibilità, di cose che ci potrebbe fare senza farle, quindi in un certo senso l'avaro è il grande romantico, no? Ha una sua poesia. tutti. Ah, una sua poesia, come? Anche perché se proprio vogliamo appunto tornare, tu fai sempre finta di eludere la questione uomo-donna che io ti pongo, te la ripongo. Quello che leggiamo, se leggiamo con attenzione la storia del povero Ebenezer, troviamo che l'evento che segna definitivamente il fatto che poi lui si rinchiude nella botteguccia, paga pochissimo i suoi dipendenti, ma lui per primo farà quella vita, non è che lui poi c'ha la barca. È vero, la barca non è cattivo, esatto, non chiede agli altri, esatto, più di quello, diverso che di quello che applica a se stesso. E l'evento fondamentale è quando la ragazza che deve sposare va lì e gli dice, siccome è ferreamente incardinata nella logica non si sposa, non si scopa, tanto per essere chiari, allora dice: io non c'ho i soldi più per fare questa roba, non si fa più. E lui questa roba dice: mio Dio. Ecco, allora, per capirci, ti riporto a un tema. Ma non è che l'avidità e l'avarizia di solito incardinate a con gli uomini di mercato, di destra, eccetera, eccetera, e poi col fatto che sono uomini, in realtà è un difettaccio, non so se di destra o di sinistra, ma comunque se è da considerare un difetto molto più femminile che maschile, Lia, che mi dici? Guarda, intanto non mi piace essere interpellata per questioni femminili, perché non riescono a calarmi così nella paladina dei diritti o della condizione femminile, cioè queste cose vanno veramente super partes, no? Però se consideri che ai tempi di Dickens ancora una donna non aveva capacità economica, cioè essere avida perché? Che senso aveva essere avidi se non per trovare l'avidità, insomma, l'interesse economico, come no, per trovare un buon marito? Ma l'avidità era la costruzione di vite, era l'unico strumento ancora a disposizione per crescere, e lo si faceva attraverso una forza terrificante di costrizione, di scelte individuali, di figli, parenti, sorelle, certo, cose via. Per le donne diciamo che l'avidità, l'accumulo di denaro derivava da diciamo funzioni e momenti strettamente biologici, il matrimonio, la riproduzione, la morte. Ma che loro interpretavano per prime e vivevano così. Certo, sì, ma non avevano neanche molte altre possibilità. Invece adesso, quando si può, veramente una donna ha il pieno controllo, insomma, su quel che guadagna e su quello che accumula, adesso l'avidità diventa molto più divertente anche al maschile per quanto riguarda le donne, poi le donne. Ma insomma, tu mi neghi che Reliar è la vittima di Cordelia? Ma tu mi neghi il fatto che qui dietro ogni grande uomo politico che ha fatto disastri ci fosse un'assassina avida dietro? Io, insomma, se vuoi ti faccio l'elenco. Non mi puoi dire che le poverine perché erano sfruttate. Aspetta, fermiamoci qua perché abbiamo un'interruzione su questo punto. Le donne angeliche. Ma insomma, ma per favore, torniamo tra poco. Della belva. Allora, eccoci qua tornati qui per debunkare Dickens e la lettura comunista del suo. Però io volevo chiedere al nostro Mario. Come dire, sì, Scrooge de Noantri, cioè lo Scrooge della finanza italiana, che è Mario alla fine. Ma non è vero. E come no, è lui che con quel braccino corto gestisce capitali con grande attenzione. Mario, non sei un po' Scrooge anche tu, scusa. No, io posso dire, io poi dopo chiudiamo perché diciamo questo è piuttosto ho una certa professionalità. Io sono Scrooge con gli intermediari. Oh, bravo! Ecco, lasciami dire questa cosa e chiudiamo la parentesi. Su quello sono assolutamente Scrooge. Ma sì, la tua visione su Dickens qual è? Da bambino, io per esempio, io sono uno che si vanta di non aver mai visto finire Christmas Carol, che lo trovavo noiosissimo e francamente a me le prediche proprio non sono mai piaciute. Tu invece? E te l'appoggio perché io ho la stessa identica tua storia, diciamo. Per cui infatti vedi come siamo diventati, cioè proprio dei disadattati culturali. Tutti e tre però, anch'io, cioè ragazzi, siamo, però è la bella. Ci siamo trovati senza dirci. Siamo finiti ai margini, Oscar. Siamo degli emarginati nel mainstream culturale di questo paese. Infatti i risultati si vedono ogni sabato. Esatto. Allora, cara Lia, allora io ti leggo alcune paroline per ricordarti che cosa avete fatto voi angeliche signore, eccetera, eccetera. Queste qui sono, dove sono? Sono dall'atto primo, scena quinta, di una roba che è intitolata naturalmente all'orrendo maschio, che però è uno strumento di una donna molto più orrenda di lei, cioè del Macbeth, e questa è la sua Lady Macbeth che dice al marito, che invece rimane l'orrido poi nella letteratura, l'orrido, avido, schifoso di potere: non mi fido della tua natura, troppo latte di umana tenerezza ci scorre perché tu sappia seguire la via più breve. brama ad essere grande, sì, tu ce l'hai, l'ambizione non ti manca, ma ti manca la perfidia che a quella si dovrebbe accompagnare, quella che trami tanto ardentemente, tu vorresti ottenerlo santamente, non sei disposto a giocare di falso, eppure vorresti vincere col torto, torna che io possa riversare nelle tue orecchie i demoni che ho dentro. Ecco, insomma, per dire, la mia visione è un po' così, è un po' eccessiva. Tu mi parli di Lady Macbeth, io ti rispondo con un altro nome che forse conosci, Elizabeth May Gym, hai sentito parlare? Questa signora è l'inventrice del Monopoly. Il gioco del capitalismo l'ha inventato una donna. Quindi, una donna anticapitalista, fra l'altro. Lei era anticapitalista, confermo. Sì, lei voleva illustrare attraverso questo gioco le pessime conseguenze dell'accumulo di terreno. Esatto. E allora negli anni 30 inventò questo gioco di carte che poi divenne in realtà un inno al capitalismo. Questo per mostrarti il rapporto ambivalente che abbiamo con l'accumulo di ricchezza, perché sì, certo, c'è la perfidia, però a fin di bene, ci raccontiamo che è a fin di bene, poi in realtà spesso sono balle che raccontiamo a noi stessi. Ma voi donne raccontate sempre che è a fin di bene ciò che corrisponde ai vostri disegni? Perché spesso lo è, noi c'è il DNA mitocondriale, quello che porta avanti hai la vita, siamo noi, capito? Ho capito. Allora, se in base a quello che hai detto è il programma di un'egemonia planetaria, però. Veramente, se pensi al trionfo del Monopoli, quando ho scoperto che il Monopoli è stato inventato da una donna, il risico probabilmente da un uomo, ma il Monopoli da una donna, questo vuol dire, quando facciamo i giochi di Natale, no, intorno al tavolo con i parenti, pensiamoci, il risico contro Monopoli. No. La battaglia dei sessi. Hai capito. Allora, lì, come sempre, perché Lia mi fa essere contento, questa è stupenda, Lia Celi, in questo. Lia Celi sta dicendo che è inutile che io mi affanni a dire che la verità è femminile. Sì, ma le femmine sono più brave, quindi lo spirito del capitalismo. Ma no, questa è una paura di paglia, Oscar. Guarda, non lo dico assolutamente. Ti parlo da spendacciona che non sa accumulare, proprio una somma pirlona totale. Però questa superiorità del sesso femminile morale non la vedo. Ma le tue figlie sono capitaliste o anticapitaliste? No, adesso rispettando le loro... Lascia perdere, sono in un periodo super anticapitalista per partito preso, per spirito di contraddizione verso un po' l'andazzo dei compagni, però dai, insomma, una si è comprata un colbacco qua sullo stemma dell'Armata Rossa, per dirti, insomma, andiamo da quelle parti lì adesso. Ma interagiscono con la madre o la considerano un inutile orpello sopramobile così che parla? Diciamo che si va a fasi alterne. Quando dico loro di mettere in ordine la stanza, sono l'inutile sopramobile. Poi in altri momenti poi mi fanno delle domande terribili, tipo: ma che differenza c'è fra comunismo e socialismo? Lì allora non so che fare. Non so che c'è Wikipedia, insomma. Ma allora, questo Natale che è festa del buonismo socialista e però in realtà alimento del capitalismo merceologico, come lo riconciliamo con questi adolescenti? Fammi capire. Guarda, non lo so, purtroppo temo che ci toccherà una visione collettiva di l'uomo che inventò il Natale, diciamo che forse tutta la loro sensibilità natalizia si esaurisce in questo, perché c'è il figlio più piccolo che invece ancora ci crede, no? Fa le recite di Natale, Gesù Bambino, eccetera, che viene orrendamente sfottuto dalle sorelle più grandi, sradicheranno quel poco di buono che c'è in lui, probabilmente compresa anche la stima nelle donne attraverso questo lavaggio del povero cervello. Povero ragazzo, veramente. Bisognerebbe dargli una tutela esterna con tre femmine in casa come vuoi. Però posso affidare ogni tanto, ma guarda, uno stagista di 10 anni, molto bravo, molto servizievole, però già il fatto che tu lo definisca, tu con le tue figlie, molto servizievole, questo ha bisogno di una spedizione di forze speciali. Però da te mi aspettavo un intervento laico, cioè non la celebrazione di questa festa della falsità, perché noi educhiamo i bambini a credere alle bufale finché non lo scoprono e poi ammettiamo candidamente che sì, Babbo Natale è lo zio. Allora, fammi capire come possiamo noi laici accettare questa roba qua. Anche ma tu, il Natale lo sapete che è stato trasferito nella festa, nella data dei Saturnali, che erano il carnevale romano, dove gli schiavi diventavano padroni, schiavi. Per questo c'è una base carnevalesca di ficzione sotto Natale e si vede ogni tanto quando la vernice dorata cade, lo vedi che sotto c'è un carnevale pagano dietro il Natale. Insomma, noi ce lo possiamo dire. No, noi ce lo possiamo dire. Detto questo, non siamo riusciti a schiodare Lia Sheridan dal fatto di essere Mano Pugile, che sta benissimo sul ring, come Cassius Clay salta agilissima ed evita di... evita, non è riuscito, non siamo riusciti a fargli dire né che in realtà lei è una dickensiana, ma ha detto ma no, ma io non ci credo per primo, né è riuscita a farci dire che le donne sono più abili, e del resto l'abbiamo invitata per questo, è abile e quindi bisogna incrociare le lame con chi è più abile di te. Allora, buon Natale a te e a tutti i tuoi buon meravigliosi figli. Buon Natale a tutti figli. Voi, grazie per i momenti di divertimento e riflessione che ci regalate tutti i sabati. Grazie a te. Ciao. Ecco, torniamo tra pochissimo. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci tornati qui. Sì, Renato Cifarelli si scusa a nome di suo, io a nome suo vi porgo le scuse di tutto, e tornerà sabato prossimo, perché oggi ci aveva da fare, purtroppo, perché poi le imprese si scopre a fine Natale, Capodanno, che hanno ancora un mucchio di cose da fare. Anche Carlo Alberto c'aveva i consigli di amministrazione in questi giorni. Non ho ancora finito. E non è ancora finito. No, voi adesso pensate che non sia vero. No, invece è vero. Invece è vero. Magari perché poi si prendono anche, sono i giorni in cui è più possibile prendere delle decisioni. Eh sì, perché cala la tensione dell'operatività e finalmente ti concentri sulle decisioni strategiche. Poi pensi che passaggi di questo genere richiedano decisioni importanti e le prendi tutti in contropiede, quando hanno le armi abbassate e tu fai l'attacco al cuore. Ecco, guardate che è davvero così, non pensiate che qui stiamo raccontandovi storie. Sempre agosto e esatto, Natale agosto, sono i momenti in cui si prendono decisioni straordinarie. Ecco, noi invece facciamo la lezione anticipata. Vabbè, ma detto tutto questo, che sono le decisioni di auto, per così dire. Chi lo sa se non guadagneremo da un po' di sospensione dell'esercizio dei diritti del suffragio universale nel nostro paese? Un governo Gentiloni Calenda che durasse, ci rimetteremo davvero? Chi lo sa? Boh, non lo so, io non lo metto come interrogativo. L'Italia senza governo di solito si comporta bene, sono i governi che fanno male all'Italia, non i non governi, caro Allora, Oscar. Questo è il tema sul quale facciamo la riflessione natalizia, però pensando all'Europa e alla Germania, è con noi Udo Gumpel, giornalista corrispondente dell'Italia da televisione tedesca e TV, che per qualche sabato abbiamo lasciato un po' più in pace, perché effettivamente siamo diventati un po' troppo petulanti. Però Udo, tanto grazie di essere con noi, però con lo spirito di questo Natale, fine anno, inizio anno, dici un po', perché noi continuiamo a considerare la Germania come se, secondo me, che ci fosse, non succede niente. In realtà non si capisce bene, ci dovrebbe essere di nuovo un ritorno nella grande coalizione, mi pare di capire, leggo l'Analyst socialdemocratica, leggo queste cose. Ma al di là di tutto, quello che abbiamo capito è che Macron ci ha detto, e Merkel ha confermato in questa settimana, noi tra aprile e giugno, noi cioè la Francia e la Germania, mettiamo appunto l'agenda della nuova governance europea. Chi c'è? Cara Italia, se tu non c'hai il governo, ti attacchi al Trump. Ma noi la definiamo. Ma anche in Germania si vede così la cosa, oppure è solo una deformazione italiana quella di considerare questi si metteranno d'accordo e ci escluderanno? Tu che dici, Udo? Naturalmente nessuno escluderà l'Italia e questa manfrina della socialdemocrazia che adesso dice non vogliamo, ma non vogliamo, sanno benissimo di essere destinati ad essere la sposa e in questo senso del governo della Merkel, e perciò su questo non c'è dubbio che andrà così a finire. Finirà a febbraio, marzo probabilmente il nuovo governo, e però la socialdemocrazia tenta di vendere cara la pelle, però dall'altra parte in realtà, dati alla mano, l'ultimo governo tedesco e Große Koalition, che serve adesso leggermente Kleine Koalition, che raggiungono appena la maggioranza del voto popolare insieme, e hanno perso parecchio, però hanno fatto in realtà molto bene economicamente alla Germania, hanno dimostrato di essere un governo molto stabile. Dunque l'Italia, certo che l'Italia si deve decidere, e quello che verrà fuori da queste prossime elezioni è una grande incognita. Io non ho assolutamente l'idea se magari centrodestra, dato il crollo, oppure diciamo lento ma inesorabile declino del PD, o di ciò che è rimasto del PD, e porterà addirittura una maggioranza dei seggi al centrodestra col 38-39% del voto popolare, sappiamo più o meno, si conquista una maggioranza assoluta dei seggi, sì. Dunque è probabile, credo che dal punto di vista di Berlusconi è poco augurabile avere un Salvini che detta legge al governo, perché Berlusconi in forse spera ancora di avere le mani un po' libere, no? Quello che io sento, quello che capisco, che Salvini è molto preoccupato. Addirittura io noto tra molti amici una tendenza di votare Berlusconi, ma uno inimmaginabile, gente di sinistra, gente riformata, riformisti, che dicono allora il voto utile, no? Il concetto del voto utile è votare Berlusconi per impedire di essere e di dare. Ma cosa ci tocca sentire da un tedesco? Ma dai, ma Udo, cioè, lui sta riferendo quello che sente. Dico delle eresie, ma tanto a me non mi interessa, io non voto in Italia, non ho diritto a votare, perciò io posso ricevere e percepire ciò che sono gli umori della piazza, e molti dicono votiamo Berlusconi non turandoci il naso, ma turandoci del tutto, e qualcuno cane guida ci porta dove mettere la crocetta, no? Però almeno per impedire che Salvini diventi il numero uno del centrodestra, no? E poi sperando sempre nel buon Dio che dei bravi pidini che ancora restino, mi pare 90.000 iscritti sono rimasti dei 400.000 dell'anno scorso, no? Pensate a questo tracollo, in un qualsiasi partito avrebbero cacciato l'intera dirigenza, ma si vede che si attaccano come come colui che affonda a Renzi. A Renzi e la Boschi, sarà la B che mi ha fatto questo lapsus freudiano, no? E ragazzi, è una situazione che naturalmente la Merkel e anche tutte le spede guarda con grande preoccupazione, ma sappiamo che il percorso del Giglio Magico finisce il 3 marzo, questo è chiaro, ma quale Italia sarà dopo? Cioè, se tu adesso non aggiungi una parola e pretendi che io ti risponda, guarda, non lo ma so. Però come si percepisce dall'estero? Ma certo che pretendo, certo che voi avete un osservatore privilegiato però... tu e io, noi tutti qua che tu inviti nella tua trasmissione, e come opinionisti sappiamo che siamo una sparuta minoranza di europeisti, certo. e credono addirittura nel mercato, nel funzionamento Pensa del mercato, ma... No? Ma come si permettono? Una piccola minoranza, il famoso il fare per cambiare, quel 5-6-7% che si riuniva intorno a te, e quello che è rimasto, no? È vero, Calenda, Gentiloni, gente bravissima che hanno tirato fuori l'Italia dalle paludi, che non hanno fatto veramente grossi errori, già questo è un grande complimento per un governo. Sono d'accordo. No? Però come si percepisce però in Germania questo ritorno della centralità di Silvio? Cioè, è un po' imbarazzante per la Merkel, no? Cioè, è imbarazzante, in realtà è quasi impossibile capire Berlusconi, perché io ho sentito la sua intervista a Radio 105 e avevo veramente difficoltà di interpretare le sue parole, no? Cioè, a me sembra che Silvio ha un gran fiuto politico, però ha davvero qualche difficoltà anche ormai di mettersi lì a fare un dibattito politico. Cioè, lui manda avanti gli altri, ma io non posso augurare anche ad Antonio Tajani di farsi mettere sulla breccia in questo momento, no? Perché con queste situazioni di maggioranza sabbia mobile sarebbe al centro-destra anche... Sarebbe naturalmente, per esempio, Tajani sarebbe un candidato spendibile, ma se lo dico io gli rovino la carriera. Esatto. Mi ha tacerli i nomi che appaiono più ragionevoli, perché altrimenti gli facciamo un non favore. No, però davvero... Esatto. Se noi siamo a favore di un bravo politico del centrodestra, onesto, e che non ha sbagliato mossa, anzi ne ha fatto buone mosse, e che ce ne sono altri, no? Chiaramente, no? Oltre al Presidente del Parlamento. Considerate che in realtà una persona, un politico italiano che ha un'altissima stima in Europa, no? E per la correttezza del suo operato, per le ottime proposte, anche veramente nell'interesse dell'Italia, se pensiamo anche alla direttiva sulle banche, no? Veramente si è speso e di cui si parla pochissimo, io posso dire solo a suo favore, questo veramente lo salva dal tritacarne la politica italiana, no? E ce ne sono altri bravi, soprattutto nel Parlamento europeo, che stanno cominciando a fare una politica a favore dell'Italia. Io direi che dal punto di vista tedesco, molti politici tedeschi, ma anche molti colleghi nostri giornalisti, sono molto preoccupati di una futura assenza dell'Italia che finisca senza una maggioranza chiara, perché in realtà voi adesso fate gli scherzi giustamente sulla Merkel che è un governo in carica, però la stabilità politica c'è, perché quei partiti, quel 90% dei partiti che sono stati votati hanno 99% la linea identica. I liberali che hanno affossato la Jamaica coalizione in Germania volevano per visibilità fare sto stesso, il proprio elettorato e i liberali gli ha già tolto un 30% del in relazione al 12% stanno all'8%. Sì, sì. Quindi voglio dire, un elettorato che continua a dare grandi segnali di stabilità, e con la differenza dell'Italia che continua a dare segni di grande incertezza, e rischiamo di essere, ormai lo siamo. Scusate, considera che il bilancio interno, non parliamo adesso del famoso tutto destro, il bilancio di tutte le casse tedesche sono in surplus di 18 miliardi. Siete avarissimi, anche voi siete gli scrunchi d'Europa. Non sono avarissimi, sono rigorosissimi. Abbracci a Udo, compare a tutta la sua famiglia. Continuate con Radio 24. Buon Natale da parte di tutti noi compari, anche da Carlo Alberto e da Marco. E dal grande gatto che è arrivato. Auguri anche da parte sua. Let it snow, let it snow, let it snow.